Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: la riforma del mercato del lavoro, è iniziato da poco il nuovo incontro, il Presidente del Consiglio ha fatto sapere che domani sarà oggetto del Consiglio dei Ministri la riforma del mercato del lavoro, la posizione del PD molto scettica, ne parleremo, ma soprattutto una cosa che, lo dico subito, ci lascia un po' sconcertati. È arrivata ieri in serata, infatti, quindi confermo anche che ci sta già scrivendo al 349-238-6666, la notizia che le modifiche all'articolo 18 e quindi la nuova, secondo il testo della riforma, i licenziamenti discriminatori andranno al giudice con possibilità di reintegro, i licenziamenti economici avranno solo un indennizzo da 15 a 27 mensilità e poi i licenziamenti disciplinari illegittimi, lì potrà decidere il giudice tra indennizzo e reintegro. Dicevo che questa disciplina, che si applica anche ai rapporti genessere e anche alle aziende con meno di 15 dipendenti, non si applicherebbe al pubblico, quindi retromarcia. Su questo ci sono posizioni anche diverse. Sul sito La Voce, per esempio, c'è una obiezione al fatto che il pubblico impiego possa essere escluso, addirittura si sostiene che dovrebbe esserci una deroga appositamente data, che ancora più grave sarebbe. Lo dico in maniera molto chiara: noi abbiamo sempre accettato le riforme di questo governo perché abbiamo detto valgono per tutti e devono valere per tutti, e quindi i pensionati o i pensionandi hanno subito già la loro botta con l'innalzamento dell'età pensionabile. Il mondo delle partite IVA del lavoro autonomo sta conoscendo, oltre che una patrimoniale che vale per tutti, che si chiama IMU, anche e soprattutto un inasprimento della lotta all'evasione molto forte, e il lavoro dipendente ha una riforma che comunque va a migliorare, secondo molti punti di vista, il mercato del lavoro in chiave più europea, però di fatto modifica l'articolo 18. Ora, se questo non si applicasse e quindi venisse confermato che non si applica al pubblico impiego, sarebbe una cosa, a mio avviso, inaccettabile. È molto semplice. Perché? Perché creeresti un mondo del privato, sostanzialmente, in cui si scarica tutto, si scaricano le tensioni. Già i privati sono quelli che sentono di più, è inutile girarci attorno. L'effetto della crisi: sono aziende che spesso concorrono su mercati esteri, hanno un problema di consumi sul mercato interno, i consumi sono fermi. E allora, e già chi lavora nel pubblico, lo sappiamo, ha un settore sicuramente più protetto. È vero che sono stati bloccati molti aumenti, il ricambio, ma insomma non è esposto alla concorrenza. La cassa integrazione sul pubblico non l'abbiamo mai vista ancora. Allora, se già il pubblico ha una situazione tra virgolette di vantaggio, non si capisce perché l'articolo 18 non si deve applicare al pubblico impiego. Sarebbe veramente inaccettabile, una presa in giro per quello che riguarda una riforma sbandierata come una grande riforma del mercato del lavoro. O vale per tutti, o se no creiamo una classe di paria, già, e quindi il settore privato, già esposti alla concorrenza, ripeto, e a quella che è la vera dinamica del mercato del lavoro: aziende che chiudono, 500.000 di disoccupati, 450.000 casse integrate in questi anni, e dall'altra parte il pubblico impiego che non solo ha logiche meritocratiche di dubbia efficacia, cioè il merito nel pubblico impiego non sempre funziona, ma soprattutto si troverebbe essere un settore iperprotetto. E allora, lo dico con tranquillità al governo Monti, l'accusa di aver protetto il pubblico impiego, di proteggere la spesa pubblica, diventerebbe un'accusa difficilmente respingibile, perché se tu non la estendi anche al pubblico impiego, crei veramente, non solo tra giovani lavoratori e lavoratori più anziani, quindi tra i tutelati e non tutelati, ma anche tra gli iper tutelati del pubblico e i poco tutelati del privato, creeresti una spaccatura inaccettabile. Io spero che su questo il governo ci ripensi, e comunque vedremo anche le varie posizioni, perché ripeto, molti giuslavoristi ritengono che non sia possibile fare questa discriminazione e che si debba per forza fare un emendamento, piuttosto una deroga. La deroga sarebbe ancora più inaccettabile. 349-238-6666 per i vostri sms. E adesso andiamo con le notizie in breve. Le borse deboli, molto deboli. Milano perde l'1,70%, Parigi l'1,33%, Francoforte l'1,15%, Londra meno 0,90% e l'America perde mezzo punto percentuale. Diverse valutazioni, ma soprattutto il manifatturiero cinese mi sembra un po' debole per giustificare tutti questi cali, eh? Delle volte i cali sono anche pretesti, o meglio, le spiegazioni date sono anche dei pretesti. Comunque, l'indice che misura l'attività del settore manifatturiero in Cina è peggiorato a marzo ed è un altro mese di contrazione, e quindi è probabile che la Cina adotterà misure a sostegno della sua economia. È sceso dai 49,6 punti di febbraio a 48 punti, cioè siamo ai minimi da novembre. Praticamente anche per la Cina vale quello che vale per gli altri paesi, e cioè sotto i 50 punti di questo indice, gli 50 punti sono la differenza tra espansione economica e contrazione economica. Nel frattempo però in America, dall'America arriva un buon dato: il tasso di disoccupazione resta stabile all'8,3%, ma continuano a scendere i sussidi alla disoccupazione, mai così bassi da 4 anni. Pensate che dall'11 al 17 marzo sono stati 348.000 i sussidi erogati, l'1,5% in meno rispetto alla settimana precedente, ma soprattutto, ripeto, il livello più basso da 4 anni a questa parte. Allora, scrive un ascoltatore che mi dà del bigolo, che in espressione, se non ricordo male, vicentina, vuol dire un po' pirla, e perché dice: noi non possiamo essere licenziati perché siamo passati con il concorso. No, allora vediamo di capirci, parla del pubblico impiego. Se cambi il mercato del lavoro lo cambi tutto, se no lo lasci così, perché già sull'articolo 18 oggi sono intervenuti anche i vescovi dicendo, insomma, c'è il rischio di creare tensioni, ansia sociale sull'articolo 18. Per carità, già è una norma, ripeto, su cui io non penso che da lì arriveranno tutti questi investimenti, però vabbè, c'è un pacchetto complessivo che cambia la flessibilità, i contratti in ingresso, gli ammortizzatori sociali quando l'azienda chiude e resti senza lavoro, cambia anche la tipologia dei licenziamenti, ma non applicarla al pubblico sarebbe una vergogna. Non me ne frega nulla di quello che dice la UIL e Angeletti, è ovvio che loro difendano il pubblico, la CISL, la UIL difendono pubblico e pensionati, la CGIL per sommi capi difende il mondo, o è meglio, viene spesso accusata di essere sotto scacco da parte dei metalmeccanici, ma non me ne frega nulla dei sindacati, sto dicendo che sarebbe inaccettabile. Come fai a far passare una riforma del mercato del lavoro che per i licenziamenti economici, e che poi sappiamo che saranno quelli più utilizzati probabilmente, dà un indennizzo da 15 a 27 mensilità, mentre in pubblico non può licenziare, sapendo che poi il pubblico ha grandissimi lavoratori, grandi elementi e soprattutto segnali di coraggio, penso a tutti coloro che fanno bene il loro lavoro, ma anche grandissime sacche di inefficienza. Attenzione, pubblico vuol dire anche la regione Sicilia, i suoi 80 dirigenti che manco, anzi i suoi 80 consiglieri comunali che manco al Senato americano, cioè voglio dire, pubblico impiego anche quello, non è solo lo Stato, eh. Andiamo avanti, per quello che riguarda lo European Systemic Risk Board, che oggi si è riunito, ha detto che la situazione sui mercati è migliorata, resta il nodo debito banche, mentre il governatore, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, in un'intervista al settimana tedesco Bild, ha detto che il peggio della crisi è passato, ma non esistono divisioni nord-sud in Europa e dentro il Consiglio della Banca Centrale Europea. Lo spread italiano però è risalito a 322 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni è risalito al 5,12%, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha detto che l'Italia resta il paese tenuto più d'occhio da parte delle autorità internazionali, e questo a causa del suo grosso debito e dei suoi grossi requisiti di finanziamento, cioè di quanto dobbiamo rifinanziarci ogni mese, requisiti che superano qualsiasi sostegno credibile con l'attuale rete di sicurezza finanziaria, a dire il Fondo Europeo di Salvataggio ISM, che ha 500 miliardi in dote, non ce la farebbe mai a soccorrere un paese come l'Italia se, diciamo, l'Italia dovesse finire in una situazione pre-crack. E poi il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli ha detto che il pareggio di bilancio nel 2013 è una realtà, non una speranza. Tant'è che anche il responsabile per l'analisi economica del Tesoro in un convegno a Francoforte, Lorenzo Codogno, ha detto che l'Italia avrà un avanzo primario o un surplus primario di bilancio di oltre il 5% nel 2013. L'avanzo primario è la differenza tra entrate e uscite di uno Stato prima di pagare gli interessi sul debito e altre amenità. Per cui come chiuderesti se non avessi tutto il debito e gli interessi sul debito da pagare? Confindustria, parliamo del nostro editore di riferimento, nel senso che ha la maggioranza relativa del gruppo Sole 24 Ore, ha disegnato il nuovo presidente, è Giorgio Squinzi, amministratore delegato della Mapei, quindi colosso nella chimica, e 93 voti favorevoli, ha battuto Alberto Bombassei, numero uno della Brembo, che ne ha avuti 82. Per me è una missione, ha detto Squinzi, sarò presidente di tutti, darò una spinta per la crescita. Una nota dell'altro sfidante Alberto Bombassei ha detto a Squinzi: garantirò lealtà e collaborazione. Il presidente della Ferrari Montezemolo ha detto la posizione della Fiat su questo è molto chiara. Io resto all'intervista di Marchionne che disse: se vince Bombassei potremmo rientrare in Confindustria. E comunque sentiamo al microfono del nostro Vincenzo Miglietta la prima dichiarazione del presidente designato di Confindustria. Il passaggio di consegne infatti arriverà solo formalmente a maggio durante l'assemblea annuale, e appunto Giorgio Squinzi. Questa presidenza di Confindustria per me è una missione. Tanti amici mi hanno chiesto di candidarmi, mi sono candidato, ho avuto la maggioranza, sono contento, in termini sportivi sul filo di lana, ricordo un corridore della mia grande squadra ciclistica, si chiamava Oscar Freire, che veniva sempre fuori negli ultimi 50 metri e batteva tutti. Ecco, io vorrei proseguire su questa linea. Naturalmente l'obiettivo principale è quello di ricompattare al di là delle divisioni che poi sono soprattutto, io penso, più apparenti che reali, che si sono verificate in questa campagna, perché se poi guardiamo i programmi dei due candidati vi rendete conto che le differenze sono assolutamente minime. E quindi subito un esempio sportivo, la Mapei infatti, che è il gruppo presieduto e posseduto dal presidente designato di Confindustria Giorgio Squinzi, era infatti una famosa squadra di ciclismo. Sempre Squinzi ha detto: il mio obiettivo è essere presidente di tutti, non sono per gli scontri. Così nella ricostruzione molto giornalistica Bombassera considerato un po' più duro, un po' più un falco, mentre Squinzi più mobile. Quando fu presidente di Federchimica concluse un accordo importante con i sindacati senza un giorno di sciopero Squinzi. Dicevo, Squinzi ha dichiarato: sono per un colloquio continuo, costruttivo, per individuare i problemi e risolverli insieme, ma non sono una colomba. Il mio obiettivo comunque è essere presidente di tutti. Il mio obiettivo è quello di essere presidente di tutti, e quindi mi adopererò per andare in questa direzione. E il mio programma è quello di far sì che Confindustria dia una spinta importante nella direzione di far ritrovare la crescita a questo paese, perché questo paese ha bisogno di ritrovare la crescita per poter ritrovare una situazione di progresso economico, civile e sociale, per combattere contro quelli che sono i nostri problemi più gravi, che sono soprattutto i problemi della disoccupazione e in modo particolare della disoccupazione giovanile. E poi appunto l'altro candidato, Alberto Bombassei, risultato sconfitto, ha detto: il risultato della giunta di oggi dimostra quanto sia ampia la realtà degli imprenditori italiani che spinge per un profondo cambiamento in Confindustria. Squinzi ha da oggi il compito di tenere unita l'associazione, di ascoltare le istanze di cambiamento, di dare voce e ruolo a questa nuova realtà. E parliamo del Sole 24 Ore adesso, perché oggi è stato firmato a Roma un protocollo d'intesa tra il gruppo Sole 24 Ore e la Guardia di Finanza. Prevede l'adozione della banca dati del gruppo 24 Ore Soluzione 24 Fisco per gli uffici operativi della Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale, e la collaborazione tra il gruppo Sole 24 Ore e la Guardia di Finanza nel campo della formazione, in particolare nei master tributari e nei master per i professionisti. Insomma, non so cosa. Collaboreremo con la Guardia di Finanza, noi da sempre rispettiamo il lavoro della Guardia di Finanza quando viene fatto bene. E allora sentiamo l'amministratore delegato del gruppo 24 Ore, Donatella Treu, che cosa porterà in più a noi la collaborazione con la Guardia di Finanza. Essendo un accordo fatto a livello istituzionale, significa associare queste due realtà di valore in Italia e poter fare in modo che il nostro gruppo sia al servizio della Guardia di Finanza nel fornire strumenti sempre più aggiornati, qualitativamente autorevoli, e da parte nostra di poterci fregiare della scelta che la Guardia di Finanza ha voluto accordare a noi. Ecco, nello specifico si interviene con la banca dati? C'è Soluzioni 24, che è la banca dati realizzata con contenuti che vengono dal nostro quotidiano, il Sole 24 Ore, contenuti realizzati dalle altre redazioni del gruppo e quindi da tutto l'insieme delle riviste, dal corpo centrale normativo e di giurisprudenza, e quindi un'opera assolutamente completa in tutte le sue parti, che sarà in grado di offrire momenti di studio, di riflessione e di formazione per tutti. Le persone, gli operatori della Guardia di Finanza. E sentiamo anche il capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, il generale di divisione Edoardo Valente, sempre al microfono il nostro Vincenzo Miglietta. Noi da sempre abbiamo puntato molto sulla professionalità e sul livello di preparazione dei nostri appartenenti. Questo perché è una tradizione nel DNA della Guardia di Finanza e soprattutto perché, diciamo, è proprio la nostra attività richiede un elevato tasso di tecnicismo. In questo ambito, naturalmente, aver stipulato questo accordo ci consente di proseguire in questo percorso offrendo, diciamo, al nostro personale un supporto di assoluto livello, che sicuramente li aiuterà a poter lavorare con maggiore serenità e con maggiore dovizia di mezzi. Allora, vedo, così appunto generale della Guardia di Finanza, vedo che volete sapere quant'è la spesa pubblica italiana. Allora, nel 2011 è stata al 49,8% del PIL. Allora, non ci vuole un genio nella matematica per fare, praticamente siamo alla metà del nostro PIL. Dovrebbe scendere da qua al 2016 al 47,9%, però insomma, visto che il nostro PIL vale circa 1.600 miliardi di euro, siamo con una spesa pubblica di 800 miliardi di euro l'anno, che però vuol dire ospedali, polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza. Attenzione al qualunquismo. Detto questo, la nostra spesa pubblica, che è scesa di pochissimo, dello 0,2% tra il 2010 e il 2011, non è più alta rispetto al PIL di quella francese, che è al 56%, non è, è abbastanza in linea con quella anche tedesca, che è al 46%, la Gran Bretagna spende meno, 45%, il 41% lo spende l'America e il 42% il Canada. Siamo appunto a 800 miliardi di euro. Com'è divisa la nostra spesa pubblica? Pensioni, quindi protezione sociale e rente, così 317 miliardi, servizi generali 132 miliardi, sanità 118, pagamento di interessi 70 miliardi, istruzione 68 miliardi, ordine pubblico e sicurezza 31 miliardi, difesa 23 miliardi. È chiaro che la voce più grossa se ne va tra pensioni, rendite 317 miliardi e i servizi generali 132 miliardi, la sanità con 118 miliardi è il 15% del totale. Non è una spesa più alta rispetto a quelli di altri paesi. Il problema sono gli sprechi, soprattutto al sud, la corruzione, i costi per beni che sono doppi, tripli rispetto a quanto non avvenga in altri ospedali AS del nord. Vedo una dichiarazione di poco fa del Premier Mario Monti che dice: eviteremo abusi di licenziamenti economici, cioè eviteremo il fatto che si abusi del licenziamento economico quando invece è un licenziamento discriminatorio o disciplinare. Niente testi oggi, prima andranno al vaglio del Consiglio dei Ministri. Sull'articolo 18 ha detto Monti: abbiamo percepito una diffusa preoccupazione, ma va, su cui vorrei rassicurare tutti, il binario dei licenziamenti economici non potrà essere abusato con aspetti di discriminazione. Cioè, il timore è che alcuni datori di lavoro furbi usino al posto del licenziamento disciplinare, dove devi andare di fronte al giudice e il giudice decide se c'è indennizzo o c'è reintegro, tu lo faccia passare come licenziamento economico. A dire il vero, l'indennizzo è così alto, da 15 a 27 mensilità, che un imprenditore, per un motivo così solo discriminatorio, pagare quasi 2 anni di mensilità forse ci pensa 2 volte. Ma è giusto stare attenti che non si nasconda sotto la voce licenziamento economico anche il licenziamento disciplinare o il licenziamento discriminatorio. Io continuo a dire, e mi auguro, non vedo nulla da Monti sull'articolo 18 per il lavoro pubblico, mi auguro che venga messa una pezza, diciamo così, perché sarebbe veramente... Ha ragione chi scrive: noi però nel pubblico impiego abbiamo il blocco del turnover e il congelamento degli stipendi. Va bene, nel senso, non va bene, eliminate quello, si torni ad avere un pubblico impiego che assume là dove ne serve assumere, dove è efficiente, e però può anche ridurre, vale per le regioni, per i comuni, per le province, per lo Stato, per tutti, può anche ridurre i suoi dipendenti là dove sono inefficienti. E a questo proposito, qualche notizia dalla crisi di quelle che fanno arrabbiare gli ascoltatori, ce l'abbiamo anche oggi. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Ne abbiamo una marea oggi. Allora, da Roma a Milano è un vero e proprio boom di biglietti e abbonamenti per gli autobus e il metro, che vengono riscoperti con il caro carburante e la crisi che morde la benzina. 2 euro infatti nelle grandi città ha fatto invertire il trend, più 30% gli abbonamenti e i biglietti del trasporto pubblico, anche perché un pieno di carburante rispetto a un anno fa costa almeno 30 euro in più, e siamo 120 euro quasi in più al mese, non è poco. Così a Roma più 6% nelle emissioni di biglietti, a Milano i biglietti mensili più 33%, quelli annuali più 20%. Ancora su questo molti commentano, dico, un effetto positivo della crisi. Sì, certo, non usi la macchina, inquini di meno, bisogna vedere se poi in realtà questo ti permette o no di arrivare a fine mese. Un ricone avaro e vecchio dice: ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà, e la crisi finirà. Oh, la casta delle toghe, i magistrati italiani. Io non so quando ci dite che noi difendiamo il pubblico impiego, questa rubrica praticamente si occupa soprattutto degli sprechi della politica, delle regioni, dell'amministrazione pubblica, ma comunque la casta dei magistrati dai doppi, tripli o quadrupli incarichi, perché oggi il governo va dato atto al governo che, cosa che il governo Berlusconi mai aveva fatto, e neanche devo dire il governo Prodi, sta pubblicando gli stipendi degli amministratori, sta pubblicando anche quanto costa la pubblica amministrazione, gli stipendi dei ministri, insomma la trasparenza la sta utilizzando. Allora, abbiamo gli stipendi e i doppi incarichi o terzi incarichi dei magistrati italiani. Si va da Giuseppe Esposito, ce l'abbiamo un applauso come effetto, non lo so. Da Giuseppe Esposito, magistrato del TAR di Napoli, che partecipa a incontri con le scolaresche di Vico e Quense ed evolve gli 800 euro di compenso alla biblioteca scolastica, e quindi un applauso appena lo troviamo glielo facciamo, al caso ben diverso del consigliere di Stato Gabriele Carlotti, che oltre allo stipendio regolare riceve dall'autorità per energia 100.000 euro l'anno come responsabile della direzione affari giuridici. Il ministro Patrone Griffi ha infatti consegnato tutti gli emolumenti dei 516 giudici della magistratura amministrativa, i 456 giudici della magistratura contabile e i 360 dell'avvocatura dello Stato. Allora, questi ultimi incassano stipendi per 54 milioni, da ultimo decurtati a 53 milioni, più un'indennità particolare detta propina, scusatemi se non conosco l'accento, che rappresenta altri 55 milioni di euro. Volete dei casi? Il capo dell'ufficio, l'avvocato generale dello Stato, Sua Eccellenza Filippo Ignazio Caramazza, ma sembra di essere in un romanzo di Manzoni, gode di un trattamento fondamentale di 290.000 euro, oltre alla propina, immagino che sia questa, di 324.000 euro, cioè mezzo milione di euro, ho capito che fai il capo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ma mezzo milione di euro. Un applauso a Filippo Ignazio Caramazza, Sua Eccellenza. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. E poi c'è Pierluigi Di Palma, vice segretario generale della difesa, giudice dell'Avvocatura di Stato. Allora, prende 180.000 euro di trattamento fondamentale, più 186.000 euro di propina. Ma che cavolo è sta propina? Ma qualcuno mi va su Wikipedia a guardare come si pronuncia e che cos'è? Perché propinare lo conosco, propinare la propina è un propinare buono, ma insomma 186.000 euro di propina, e più ha ottenuto nel 2011 anche 70.000 euro come consulente giuridico dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ma io dico, fai già il vice segretario generale di difesa, sei già giudice dell'Avvocatura di Stato, pure consulente giuridico dell'Agenzia Spaziale Italiana, e che problemi aveva l'Agenzia Spaziale Italiana di carattere giuridico? Controversie su Marte? Applauso a Pierluigi Di Palma, complimenti, perché così a spanne sono 350-420.000 euro. Chiudiamo con Michele Bonauro, che cumula l'incarico di giudice al TAR con la consulenza giuridica all'autorità per la comunicazione e che per due giorni a settimana di impegno incassa 35.000 euro lordi, and the Oscar goes to Michele Bonauro. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà. E intanto, dopo il tentativo non fortunato della 7, il contrattore è su Sky Cielo, che va in onda un talent show, cioè si metterà in palio un vero posto di lavoro. Il format americano si chiama The Apprentice, ossia il principiante, debutta a settembre, è già possibile candidarsi, saranno selezionati 12 concorrenti che si sfideranno per uno spietato, guidati da uno spietato super boss del business. E il vincitore potrà iniziare la carriera con una posizione di spicco nell'azienda del boss. Sembra un format incredibile. Comunque, ricordo che l'operazione della 7, il contratto, non andò bene. Tra l'altro in studio c'era, in qualità di opinionista, Michel Martone, poi vice ministro al lavoro, quello degli sfigati ai giovani e del papà, che forse un po' l'aveva aiutato, nostro ospite anche. E agli esordi Martone dichiarò che la trasmissione sarebbe servita a portare in TV i problemi veri di chi cerca lavoro. Stiamo ancora aspettando. Nel frattempo però, chi volesse, sappia che la regina Elisabetta cerca un maggiordomo. E voglio dire, anche tra la mia categoria si potrebbero fare avanti. Un maggiordomo, allora, un annuncio sul sito della Casa Reale afferma che il nuovo dipendente verrà assunto a livello di apprendista con un salario di sole 15.000 sterline per 45 ore di lavoro a settimana, ma con vitto e alloggio pagati. Un po' tirchia, Elisabetta. 15.000 sterline per 45 ore di lavoro a settimana con vitto e alloggio pagati. Al nuovo maggiordomo spetterà il compito di raccogliere e consegnare i vassoi del tè e del caffè, i vassoi della collezione e i giornali alla sovrana e alla sua famiglia. Conosco molti miei colleghi, ma anche molti uomini politici che potrebbero candidarsi. Adesso meteo, pubblicità, poi facciamo la borsa e poi iniziamo la pagina lunga sul mercato del lavoro. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Nel frattempo adesso facciamo la borsa, abbiamo scoperto cosa vuol dire propina, il compenso corrisposto ai professori o dei soggetti quale componenti di commissioni esaminatrici secondo alcuni dizionari, ma anche regalo, ricompensa, compenso onorario per prestazioni di avvocati, magistrati e simili. Allora, c'è anche una citazione del Muratori che dice: tali e tante sono le propine degli ufficiali della giustizia che né più né meno se ne va scorticato il povero reo. Ecco, siccome gli avvocati dello Stato, che sono 360, anche qui io non sono in grado di stabilire, sono tanti, sono pochi, mamma mia, uno al giorno, ebbene, beccano 54 milioni di euro di stipendio, tutti assieme, però altri 55 di propina, che in spagnolo vuol dire mancia. Sarà forse un caso che voglia dire mancia in spagnolo? Non lo so. Altri 55 milioni, e da lì il caso appunto del capo dell'Avvocatura dello Stato, Sua Eccellenza Filippo Ignazio Caramazza, veramente una cosa da... No, rido perché mi viene una incavolatura, che ha 290.000 più 324.000 e si porta a casa alla fine 550.000 euro, grazie appunto alla propina da 324.000. La borsa, va là. Mamma mia, che paese. Allora, no, il bello che devo dire, queste cose vengono fuori perché il governo Monti le sta pubblicando, perché col cavolo che il governo precedente e anche, ripeto, quello Prodi si sono mai sognati di raccontarci quanto guadagnavano tutti i corpi tecnici dello Stato, quelli più alti, né poi quanto anche spendessero loro. Tra l'altro ho visto che i voli di Stato sono crollati come utilizzo, 22 milioni di euro in meno. Ma questo per dire che il governo precedente ha avuto un record di utilizzo dei voli di Stato nel 2010 e anche nel 2011. Comunque, la borsa, no, per la memoria va utilizzata in questo paese. La borsa, tutte negative, meno 1,70% Milano, meno 1,5% Parigi, meno 1,30% Francoforte, meno 0,80% Londra. Ma è veramente la Cina, Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore? Diciamo che la Cina è i timori in generale sull'andamento dell'economia globale. Oggi gli indici PMI dei responsabili degli acquisti dei vari settori, sia in Cina appunto che nell'Eurozona, sono stati peggiori delle attese, quindi diciamo che si prende a pretesto questi timori, che comunque appaiono giustificati in alcuni, almeno in alcune aree del mondo, di frenata della ripresa che si sperava potesse essere avviata in questa fase. Sì, non ci sto capendo più niente, perché noi stiamo frenando di brutto, noi però stiamo frenando, sì. E siamo in recessione, però si dice a fine 2012 arriverà la ripresa. Non ho capito, se frena anche la Cina, chi la fa la ripresa? La Papua Nuova Guinea? Non so. No, appunto, questo è, infatti, diciamo che è quello che si stanno chiedendo un po' tutti, e quindi anche il motivo per cui chi aveva guadagnato un po' nelle ultime sedute, che erano state larga misura di ripresa, adesso sta passando subito all'incasso. E tote parati, io sento aria di un'estate calda. Comunque non voglio, se no mi do il gufo da solo. Meno 4,66% il Banco Popolare, meno 4,30% Popolare Emilia Romagna, meno 3,90% Pop Milano, meno 3,40% Monte dei Paschi. Cosa ho dimenticato di banche? Beh, un bel gruppetto, devo dire. Mediobanca meno 2,30%, Intesa meno 2,20%, Unicredito meno 2%. Vabbè, le banche, come sempre, risentono di più. Il Banco Popolare però ieri è andato molto bene dopo l'annuncio dei conti, no? Esattamente, i conti con la grande pulizia di bilancio che aveva portato alla svalutazione degli avviamenti, comunque era stato apprezzato dal mercato. Ieri il titolo aveva guadagnato oltre 3%, oggi diciamo che si è mangiato integralmente quel guadagno, è sceso del 4,66%, chiudendo a 1,57 euro. Quindi oggi diciamo tutto il settore bancario in calo, proprio per le motivazioni che dicevi tu, inoltre per il rialzo dello spread che ha chiuso a 318 punti base tra BTP e Bund, inoltre su alcuni titoli, appunto, soprattutto il Banco Popolare, pesano i realizzi dopo la buona performance di ieri. Adesso c'è il traffico, poi vorrei invece parlare di altri titoli, Pirelli, Camfin, ma anche Terna che tiene, Mertec Nimon invece è uno dei peggiori titoli, forse il peggiore, è il peggiore, meno 17,5, una bella giornata, di Assorin. Invece bene, poi la Galassia o Buconero Ligresti, e quindi Premafin, Unipol e Fonderia. Sai, Unipol non è ancora nella Galassia, diciamo, ma ci vorrebbe entrare. Traffico. Focus Economia. Allora, torniamo a parlare di borsa. C'è però un ascoltatore che scrive sul sito del programma su Facebook e dice, insomma, lei ha fatto dell'ironia sull'Agenzia Spaziale Italiana, perché cosa dicevamo? Dicevamo sostanzialmente che Pierluigi Di Palma, vice segretario generale della difesa, giudice dell'Avvocatura di Stato, guadagna 180.000 euro come stipendio, poi ha 186.000 euro di propina, e andiamo bene, e poi nel 2011 ha avuto anche 70.000 euro come consulente giuridico dell'Agenzia Spaziale Italiana. Io non metto in discussione che l'Agenzia Spaziale Italiana abbia bisogno di avvocati per dirimere, come scriverei, problemi in progetti e questioni riguardanti la proprietà intellettuale. Va benissimo. Mi chiedo se sia giusto che uno che è già vice segretario generale della difesa e giudice dell'Avvocatura di Stato e guadagna alla fin fine 200, siamo a 350.000 euro, debba prendere altri 70.000, magari lo si dava un avvocato con un altro lavoro. Cioè, è questo che dà fastidio, il doppio triplo incarico, cavolo, con la disoccupazione che c'è, dalla a un altro avvocato. Ci sarà qualcuno in grado di dirimere le risse su Marte, come ho detto io, ma le dispute di proprietà intellettuale, tutto qua, perché quando lo dai a uno che ha già quegli incarichi il sospetto viene forte, ok? Dallo a un privato e al massimo ribasso, quello sì, no? Il ponte di Calatrava. Andiamo avanti, Paolo, che mi sto arrabbiando. E Pirelli, Canfin e Mer Tecnimont. Sì, diciamo che sono stati tutti i titoli che erano chiusi in caro, anche se Pirelli è stata assolutamente in linea, anzi ha fatto un po' meglio del listino, ha perso l'1,5%, per tutta la seduta ha fatto un po' peggio la tendenza di riferimento Canfin, che infatti ha chiuso a 3,9%. Ieri Canfin ha annunciato i conti 2011, che sono chiusi con un utile triplicato rispetto al 2010, e ha rivalutato la quota in Pirelli, che era stata svalutata nel 2008, e le indiscrezioni di oggi parlano però di una Canfin che potrebbe essere costretta a vendere parte della quota in Pirelli. Ovviamente sono soltanto indiscrezioni a cui comunque il mercato sembra non credere molto, perché altrimenti un possibile riassetto nell'azionariato di Pirelli avrebbe probabilmente sostenuto il titolo più di quanto oggi è successo. Per quanto riguarda invece Mer Tecnimont, come dicevi prima, è stata di gran lunga il peggior titolo del listino, ha perso il 17,5%, qui a pesare sono stati i conti 2011 annunciati ieri sera, sono risultati che secondo il mercato sono deludenti, la società ha chiuso nel 2011 con redditività in calo, i ricavi sono cresciuti ma sono negativi sia il business profit che l'EBITDA, che l'EBIT, che l'utile netto, anzi, cioè la perdita netta di 296 milioni contro un utile di... Quindi sia i guadagni prima degli interessi, delle tasse, che poi l'utile netto, tutto negativo. Allora, Diasorin invece, dopo un marzo negativo, sta recuperando. Attenzione, c'è un flash d'agenzia. Il governo ha fatto sapere che non cambia idea sull'articolo 18 in materia di licenziamenti economici. Non ci sarà la possibilità di reintegro, ma solo quella di indennizzo. Lo riferiscono fonti governative presenti al tavolo con le parti sociali. E vorrei, quanto ho ancora? Un minuto? Due? E vorrei chiudere con Premafin, Unipol e Fonsai. Non torno più sul fatto che l'Igresti dal 2003 al 2010 si è fatto dare 40 milioni di euro di consulenza, lui che era proprietario di Fondiaria, dall'amministratore delegato, oltre che presidente, una cosa bellissima sulla governance. I titoli. Oggi tutti i titoli coinvolti hanno chiuso in calo, tra i peggiori proprio Fonsai, che ha chiuso in calo del 3,5%, diciamo che ieri è arrivato l'ok delle banche creditrici della Galassia alla ristrutturazione prevista dal piano Unipol, sembra un passo in più che potrebbe appunto avvicinare, diciamo, la vittoria di Unipol nei confronti dell'accordata concorrente che è stato Palladio, quindi diciamo che oggi si è spento un po' l'appeal speculativo e quindi oggi gli investitori hanno venduto i titoli, ovviamente in attesa di novità e della chiusura definitiva della partita. Allora, il migliore in assoluto è Meridiana Fly più 17,20, e poi Antichi Pelletieri più 11%, il peggiore oltre a me Tecnimon, Prelios meno 9,50, Neurosoft meno 8,5%. Dopo il GR torniamo in diretta, grazie intanto a Paolo Paronetto, e ci occupiamo praticamente solo delle novità sul mercato del lavoro e anche qualche risposta a chi scrive al 349-238-6666. Focus Economia. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo della riforma del mercato del lavoro, non più degli stipendi dell'Avvocatura dello Stato o dei tripli incarichi di magistrati e della magistratura amministrativa e di quella contabile. Voglio dire una cosa però, visto che abbiamo citato casi veramente da... lasciamo stare. Invece ricordiamo anche Giuseppe Esposito, magistrato del TAR di Napoli, che partecipa a incontri con le scolaresche di Vico Equense e devolve gli 800 euro di compenso alla biblioteca scolastica. Okay? Questo è mentre mi chiedo tuttora, ma me lo spiegherà lui se vogliono venire in trasmissione, i nomi che abbiamo citato siamo apertissimi. Il consigliere di Stato Gabriele Carlotti, che oltre allo stipendio regolare riceve anche dall'autorità per l'energia 100.000 euro l'anno come responsabile delle direzioni affari giuridici. Cioè, non è che non serva una direzione degli affari giuridici all'autorità per l'energia, a parte che l'autority per l'energia, non è che abbiamo visto tutta questa attività in questi anni. Ma detto ciò, perché non lo date a qualcun altro? Almeno aumentiamo il numero di occupati. Perché sempre agli stessi? Perché i tripli incarichi, le quadruple poltrone? Ma perché uno non ce la fa a vivere con 180.000 euro lordi l'anno? Non lo so. Allora, vista la situazione del pubblico impiego, a maggior ragione delle alte cariche, è inaccettabile che l'articolo 18 non si applichi al pubblico impiego. Intanto però andiamo a fare un aggiornamento delle dichiarazioni di oggi, o meglio dell'ultima di ieri sera, che è quella che ha aperto il fronte il segretario del PD Bersani su Monti. Allora, siccome adesso scusate la battuta bersaniana, ma l'acqua va in basso, no? Non è che va in alto, no? Va in basso. Benissimo. Allora, i licenziamenti andranno tutti sull'economico. Quegli altri due passaggi non ci saranno più. Ma lei pensa che il presidente Monti possa dire a noi prendere o lasciare? Non l'ha mai detto in tutti questi mesi, neanche su cose minori. Io non mi aspetto che il presidente Monti dica a noi prendere o lasciare, Perché è chiaramente noi votiamo quando siamo convinti. E si ragiona con noi, Si ragiona con noi. Ha ragione Bersani, verso il basso va l'acqua, ma cadono anche verso il basso alcune cose. Quando leggiamo gli stipendi che abbiamo raccontato, quando vediamo che l'articolo 18 non si applicherebbe alla pubblica amministrazione, il timore che molti utilizzino solo il licenziamento economico, quello che prevede l'indennizzo da 15-27 mensilità, infilandoli dentro anche i licenziamenti discriminatori, è un timore forte. Devo dire che Monti su questo ha detto che chiariranno, eviteremo gli abusi dei licenziamenti economici. E poi la posizione del presidente, a questo punto uscente, visto che oggi c'è il presidente designato di Confindustria, Giorgio Squinzi, ma la presidente uscente Emma Marcegaglia. Noi pensiamo che, l'abbiamo detto varie volte, la formulazione, l'unico testo che abbiamo è una formulazione sulla flessibilità in uscita sull'articolo 18. Noi abbiamo già detto che questa formulazione per noi non è ideale, la nostra posizione era diversa, era abolizione del reintegro su tutti i casi di licenziamento tranne quello discriminatorio dove deve rimanere. In questo caso non c'è più il reintegro sull'economico, c'è ancora sul discriminatorio completamente, c'è sul disciplinare parzialmente. Qualsiasi ipotesi di cui peraltro sentiamo parlare, ma speriamo oggi pomeriggio, come sapete, abbiamo un incontro e quindi avremo idee più chiare, qualsiasi ipotesi di indebolimento di questa posizione, sulla quale peraltro il presidente Monti ha preso una posizione molto chiara, ha detto la discussione sull'articolo 18 è chiusa, per noi non è accettabile. Cioè, se si dovesse andare verso un indebolimento ulteriore della riforma dell'articolo 18, secondo noi non sarebbe una riforma, cioè a quel punto il risultato complessivo della riforma sarebbe un irrigidimento del mercato del lavoro, perché abbiamo irrigidito la flessibilità in entrata, abbiamo ridotto le mobilità che per le aziende industriali sono comunque uno strumento per accompagnamento di alcuni lavoratori fuori dalle aziende, magari i più anziani verso le pensioni. Quindi se noi possiamo accettare questi irrigidimenti che ci sono stati su ammortizzatori e flessibilità in entrata solo se c'è un'ipotesi di flessibilità in uscita che ci porti quantomeno a livello europeo. Se dovesse essere ulteriormente indebolita, per noi questa riforma non è accettabile, cioè non serve a niente, anzi peggiora la situazione del mercato del lavoro. E adesso arriviamo anche al fatto che, come era temibile e immaginabile, di una riforma più complessa, come ricordava anche la Marcegaglia, che prevede anche un maggior irrigidimento nei contratti d'ingresso, un po' di pulizia, il tempo indeterminato dominante e un costo più alto per le imprese sul tempo determinato, prevede anche il sussidio di disoccupazione vero e proprio, che sostituirà le varie indennità di disoccupazione, e soprattutto non si potrà più utilizzare la cassa integrazione ordinaria e straordinaria in caso di chiusura dell'azienda. Dicevo, tutta la polemica e tutto il dibattito si concentra sull'articolo 18, quindi sulla flessibilità in uscita. Prima di tutto però vorrei su questo ascoltare chi ci lavora tutti i giorni sul mercato del lavoro, ossia chi fa cosiddetto collocamento, job placement, nel mercato del lavoro. E allora, dottor Rosario Rasizza, mi sto legato di Open Job Metis, buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie, abbiamo avuto anche nel passato, nostri, di tutti, però abbiamo avuto nel passato altri suoi colleghi. A me interessa capire, dal vostro punto di vista, che voi fate job placement, cioè siete il tramite tra chi cerca lavoro e le imprese, cerca lavoro come soggetto fisico, e le imprese che hanno bisogno di lavoratori. Ecco, di questa riforma, al di là dell'articolo 18 che vi riguarda molto poco, soprattutto sulla parte dei contratti all'ingresso, cosa le piace, cosa non le piace, a cosa ambite? Ma devo dire che per quanto riguarda i contratti in entrata, la riforma va proprio nella giusta direzione, perché riduce e soprattutto fa giustizia con tutte quelle forme spurie di contratti che non rispettavano totalmente i diritti dei lavoratori. Quindi io sono molto contento di leggere che questa riforma va nella giusta direzione, ma soprattutto di ridurre tutti quei contratti non perfettamente regolari. Quindi mi sembra che siamo sulla perché strada. Anche a voi, diciamo, tra virgolette, non fa comodo avere una giungla di formule contrattuali? No, noi vogliamo valorizzare esclusivamente quello che è stata definita in questi giorni la buona flessibilità, e la buona flessibilità per noi è una cosa sola: assumere regolarmente un lavoratore, non considerarlo un precario, ma considerarlo esclusivamente flessibile. Flessibile vuol dire per un tempo determinato, ma con tutti i diritti, con tutti i doveri. Ieri Pietro Ichino diceva a questi microfoni, senatore del PD, giuslavorista, che sugli ammortizzatori, cioè sul fatto che l'assegno di disoccupazione fino a 1.119 euro al mese per 12-18 mesi, ma ogni 6 mesi scenderà del 15%. Diceva si poteva fare di più, perché l'obiettivo, sostiene Ichino, è quello di stimolare, monitorare poi cosa fa il lavoratore. All'estero non solo ti viene dato il sussidio nei casi più virtuosi, ma si controlla che tu lo stia cercando veramente il lavoro. Ma sono d'accordo, nel senso che le agenzie per il lavoro, per esempio, dovrebbero aiutare attraverso tutta una serie di politiche attive a ridurre questo tempo di inattività del lavoratore. E noi per primi, attraverso processi di formazione, di riqualificazione, di aiuto e magari di orientamento ad una nuova professione, dobbiamo fare in modo che questo tempo di inattività si riduca, e facendo così ridurremo anche i costi per tutta la comunità. Senta, ma quando lei dice che il vostro obiettivo è quello di fare in modo che poi il lavoratore che fa il contratto a voi, poi voi collocate in un'impresa, venga finalmente poi assunto a tempo indeterminato, non è un obiettivo controproducente per voi? Cioè, se lui viene assunto, voi perdete comunque un elemento di scambio, tra virgolette, no? No, noi siamo molto orgogliosi quando un nostro lavoratore ci dice che l'azienda, mediamente dopo 90 giorni di contratto in somministrazione, viene assunto dalla nostra azienda cliente, perché questo vuol dire che noi abbiamo fatto un buon lavoro di selezione, questo vuol dire che abbiamo fatto un buon servizio all'azienda nostra cliente, ma soprattutto abbiamo creato un nuovo posto di lavoro a tempo indeterminato. Tutto questo ci verrà riconosciuto dall'azienda cliente, che ci richiamerà per una nuova missione, per un nuovo incarico, e dal lavoratore, che parlerà bene di noi e ci manderà nuovi suoi amici per la ricerca di un posto di lavoro. Siamo orgogliosi quando questo avviene e tengo a precisare che mediamente avviene per il 30-35% delle missioni, quindi ogni mese... Cioè uno su tre poi resta nell'impresa dove voi l'avete collocato temporaneamente. Esattamente. Mi dici come stanno andando le cose, perché noi vediamo dei segnali incredibili, da novembre in poi ordinativi, produzione industriale, si è fermato tutto di nuovo, oggi si è fermata anche la Cina. Voi? Ma noi diciamo che siamo in una fase ci possiamo definire su un otto volante, nel senso che saliamo, scendiamo, non è proprio un tunnel senza vedere la luce come era stato nel secondo semestre del 2009. C'è una lenta ripresa, c'è una lenta stabilizzazione dei contratti, non c'è quello sprint finale, sembra che siamo tutti lì in attesa di qualcosa che possa farci dire ok, pronti via, partenza. Ecco, ovviamente l'Italia è lunga e stretta, ogni zona ha le sue caratteristiche, però quando noi vediamo che dal Triveneto incominciano ad arrivare segnali di crescita, vuol dire che poi pian pianino tutta l'Italia viene investita da questa da questo entusiasmo, da questo ottimismo. Ok, grazie, speriamo appunto che dall'otto volante si passi a un andamento un po' più lineare. Grazie a chi appunto rappresenta una delle principali società di job placement, di collocamento di lavoro, e quindi Open Job Metrics SPA, l'amministratore delegato Rosario Rasizza. Arrivederci, buonasera. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera Guido. Buonasera a voi. È un bel casino qua. Cioè, sì. No, nel senso... Allora, il pubblico impiego è escluso. L'articolo 18 Monti dice che non verrà modificato, ma verranno evitati gli abusi sui licenziamenti economici. Nel giorno in cui scopriamo che appunto gli stipendi dell'avvocatura dello Stato sono stratosferici. Dopo il traffico vorrei sapere come se ne esce, ma soprattutto sul pubblico impiego, perché io non ce l'ho col pubblico impiego oggi. È vero che hanno stipendi bloccati, il turnover è bloccato, ma un criterio meritocratico vuole anche dire introdurre, cioè, se la flessibilità deve essere introdotta anche nel pubblico impiego, sennò avremo due mondi completamente diversi. La crisi si scarica sul privato, il pubblico gli blocchi il turnover, gli blocchi gli stipendi, ma resta sempre con la stessa spesa, cioè non si va da nessuna parte in questo modo. Dopo il traffico, Focus Economia. Allora, prima della risposta di Guido Gentili, c'è il nostro Andrea Viali che sta seguendo il nuovo incontro tra governo e parti sociali iniziato verso le 16. Novità, Andrea, buonasera. Scusa Sebastiano, la linea è disturbata, spero che tu possa sentirmi meglio di quanto io ho sentito la sua domanda. L'incontro sì, è ancora in corso, siamo in attesa di comunicazioni ufficiali, naturalmente non mancano le indiscrezioni di cui probabilmente avrete già dato conto. E cioè che Monti dice l'articolo 18 non lo cambiamo nella sua impostazione, ma garantiremo con delle norme, con delle modifiche, che non vi siano abusi sul licenziamento per motivi economici? Sì, esattamente. Tra l'altro anche il leader della CISL Bonanni, prima dell'incontro, con una nota aveva annunciato che si stava lavorando proprio su questo aspetto e si guardava ancora una volta al modello tedesco, che per quanto riguarda i licenziamenti per motivi economici, ricordiamo, coinvolge molto le organizzazioni sindacali. Tempi. Sta parlando il ministro Fornero, che quindi, tolta parte della flessibilità in uscita che verrà definita domani nel Consiglio dei Ministri, ha illustrato alle parti sociali prima il capitolo sulla flessibilità in entrata, che sarà una stretta sui contratti precari per evitare gli abusi, cose tra l'altro già illustrate nel corso dell'ultimo incontro, e a breve dovrebbe passare al capitolo degli ammortizzatori sociali. Quindi non finirà brevissimo, i prossimi aggiornamenti nel corso dei nostri GR. Grazie Andrea Viali. Allora Guido Gentili, come se ne esce? Anche la CEI, i vescovi italiani oggi sono intervenuti e hanno detto una frase molto forte, che chiaramente adesso non riesco a trovare, però una frase molto forte sul i rischi, l'ansia sociale che può essere introdotta dall'articolo 18, no? Allora, mi sembra che, come era prevedibile, tutto si stia arenando sull'articolo 18 e soprattutto anche sull'esclusione del pubblico. Allora, purtroppo è capitato quello che ci immaginavamo nelle scorse settimane, cioè che questo dibattito importante sulla riforma del lavoro è finito per entrare in questo collo di bottiglia dell'articolo 18 su cui questo paese si divide da 30 anni. Le dichiarazioni oggi della CEI sono veramente molto dure, perché ha parlato, diciamo, clima di paura, l'ho trovata, la clima di paura generalizzata e di un sostanzialmente modalità per i licenziamenti, quelli economici, che potrebbe rivelarsi infausta. Quindi è una presa di posizione molto dura, che fa parte ovviamente del dibattito, ma che dice appunto, ci dà la dimensione della posta in gioco. Il secondo elemento è quello che ricordavi tu e che riguarda questa balletto, perché di questo si tratta, riguardo la questione se gli statali sono dentro o no le modifiche dell'articolo 18. Il governo ha detto ieri sera che sono fuori, ma la materia è assolutamente controversa, anzi io direi la maniera è chiara, perché il testo unico che disciplina il lavoro pubblico, che fu varato 10 anni fa, nel 2001, parla esplicitamente che la legge, lo statuto dei lavoratori del 1970 si applica alla pubblica amministrazione a prescindere dal numero dei dipendenti, e quindi è una disposizione chiara, anche se poi c'è una discussione in punta di diritto di altri giuristi che dicono sì, però devono essere scritte delle norme specifiche. Sì, però la scelta è politica, come si diceva una volta, cioè se tu già giuridicamente puoi applicare lo statuto dei lavoratori anche al pubblico, tu ricordavi la legge di 10 anni fa, certo. La scelta è politica, chiaro che se politicamente vuoi fai una deroga, un emendamento, però io mi chiedo come possa reggere una riforma del genere se non riguarda anche il pubblico impiego, che non vuol dire, come scrivono alcuni, andare a licenziare sul pubblico, a parte il fatto che allora contestiamo tutta la riforma. Ma se c'è una ragione economica, voglio dire, se alcuni dipendenti di alcune regioni, vogliamo prendere la Sicilia, tanto non sbagliamo, sono in esubero, vogliamo prendere il Comune di Roma che ha assunto 34 persone per l'ufficio stampa, o la Moratti a suo tempo ne assunse 50 qui a Milano. Allora, se c'è un problema economico, un'amministrazione comunale deve essere anche in grado di licenziare, o no? O solo il privato? Certamente, ma poi nel momento in cui è una questione anche di equità sociale, di fondamentale, perché non si può tenere fuori, puntare solo a modificare le condizioni che riguardano il mondo privato e lasciar fuori 3,8 milioni di lavoratori del pubblico impiego, e questo significa non perché devono essere criminalizzati o perché dobbiamo auspicare i licenziamenti del pubblico impiego, no, semplicemente perché è una questione di uguale trattamento di fronte alla legge. E poi è, diciamo, balza evidente il fatto che lo Stato ha dei gravissimi problemi economici, come dimostra il suo livello di indebitamento, e quindi non si capisce perché i problemi economici possono essere invocati per un'azienda privata per licenziare e questo non può accadere per il pubblico. Sì, poi tra l'altro è la spesa pubblica che noi finanziamo ogni anno, perché attenzione, cioè non è che andiamo a finanziare con l'emissione, la spesa pubblica è il debito dello Stato, però cioè, io veramente non capisco si possa immaginare di far passare una cosa che riguarderà solo il settore privato. Mi sa che ci risentiremo, Guido, perché la posizione del PD è molto netta, c'è una posizione anche politica, la posizione della CEI secondo me metterà anche in difficoltà qualche partito politico, principalmente quello di centro, e perché è difficile poi dar torto ai giudici. Devo dire che scrive un ascoltatore, con questo vi saluto, dice: io lavoro nel pubblico impiego e voglio che sia applicato l'articolo 18, così qualcuno inizia a prendere paura e inizia a lavorare. Ecco, spero che non serva questo, però insomma che il pubblico impiego sia solo efficiente lo andate a raccontare in un altro programma. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, da Sebastiano Berrigioni, l'auguro di buona serata, ci risentiamo domani per l'ultima puntata dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.